Ma se te dico che le cuffie le metti dopo, le devi mettere dopo. Non c'è tempo, è finita la sigla. Vabbè, buoni, buoni, non iniziamo subito, per favore. Questa seconda della prima puntata. Esatto. Spiega bene, perché sennò non capiscono. Allora, diciamo che abbiamo fatto un po' di gavetta. Quindi siamo arrivati più o meno a una trentina di puntate. Per chi le volesse ascoltare, poi il podcast sulla nostra pagina Facebook, sono tutte linkate e disponibilissime. Però abbiamo deciso di ricominciare da capo, d'accordo con Paolo. Visto che, diciamo, Radio F sta un po' ritornando agli albori, speriamo, come era un tempo, visto che ci sono programmi nuovi, e abbiamo deciso di comune accordo di ricominciare da capo con le nostre puntate. Quindi parleremo della storia del rock e tutto quello che ha a che fare con il rock. Esatto, infatti parleremo sempre della storia del rock, dei compleanni quando ci sono. Presenteremo il contest, quindi vi diremo la canzone vincente del contest di questa settimana, e non solo, anche le citazioni, vero Nanno? E anche le citazioni, come avevamo fatto fino a poco tempo fa, ecco. Esatto. E parto subito col dire il compleanno, con fare sì, gli auguri. Primo compleanno, primo ed unico, unico di Howard Duane Allman, noto anche come Sky Dog, nato a Nashville il 20 novembre del 1946 e morto a Macon il 29 ottobre del 70. Cioè, aspetta, fammi capire, Sky Dog, sì, cane del cielo? Sì, tipo, esatto, più o meno. Lo sanno loro. La traduzione è questa. È stato un chitarrista e cantante statunitense, famoso sia per l'uso dello slide sia per la sua notevole capacità di improvvisare. È stato inserito al nono posto nella lista dei 100 migliori chitarristi secondo la rivista Rolling Stones. È noto per aver fondato la Allman Brothers Band con suo fratello Greg ed anche per aver avuto un ruolo importante nell'album nel 1970 Lila and Other Assorted Love Songs dei Derek and the Dominos, in cui collaborò con Eric Clapton. Inoltre è stato season man per alcuni grandi artisti R&B dell'epoca. Quindi, per celebrare il suo compleanno, il compleanno di Duane, vi faremo ascoltare Statesboro Blues dei Allman Brothers Band. Make it, darling. It's just a little seal, since you wanna go. E questi erano gli Allman Brothers Band con la canzone Statesboro Blues. Adesso invece parliamo di Joseph Joe Walsh, Wichita, il 20 novembre 1947 nato, ed è un chitarrista statunitense e dal 1976 componente del gruppo musicale The Eagles. Nel 1976 è entrato a far parte degli Eagles, appunto, la band country americana che ha venduto più dischi al mondo, con quale collabora attualmente. Nel 1978 da solista incide In The City, resa celebre in quanto uno dei brani principali della colonna sonora di The Warriors, I Guerrieri della Notte, un film del 1979 diretto da Walter Hill. Il brano verrà poi inserito nell'album degli Eagles The Long Run del 1979. E adesso In The City, The Eagles. Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta qui a All Time Rock and Roll e questa era In The City degli Eagles. Questa che sentite in sottofondo invece è la storica canzone di un certo B.B. King, Three O'Clock Blues, e praticamente è, diciamo, una canzone che parla degli albori del rock and roll, del blues e del country. È una canzone che ha segnato un'epoca, ha segnato addirittura forse la storia intera della musica rock and roll. Eccola, B.B. King, Three O'Clock Blues. Well, I can't find my- satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Bowling ground. That's where the men hang out at. Well, I'm bound to find them. B.B. King, 3 o'clock blues. Dunque, iniziamo col dirvi che il rock and roll è un genere musicale nato negli Stati Uniti negli anni 50, diffusosi poi in tutto il mondo. Ha le sue origini, come dicevo prima, nel blues, nel country, nel rhythm and blues e nel folk. L'enorme popolarità di questo genere e la diffusione in tutto il mondo ha dato il via anche a un grande impatto sociale, lontano dall'essere un semplice stile musicale. Il rock and roll, infatti, è entrato nel mondo dei media e della cinematografia, condizionando stili di vita, le mode, gli atteggiamenti e la stessa lingua, e si è diramato negli anni successivi in vari sottogeneri, come blues rock, pop rock, punk rock, hard rock, grunge, fino ad arrivare al metal, infine indie rock e le sue varie derivazioni. Un po' in tutta l'America iniziavano dunque a sbocciare le prime forme di quello che sarebbe stato il rock. Muddy Waters, Rolling Stone. I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Well, I feel, yes, I feel, baby, like a lowdown, oh, time ain't long. I'm gonna cut the first thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there. E continuiamo sempre con la storia del rock. Grazie Valerio. Io lo picchio un giorno di sì, quest'altri, lo picchio, tecnico lì che da, si mancava la sdraio, la lampada uva, gli si era aperta la era a posto dei TVCC allarmi, se pioveva fuori che dici. Ed erano i Muddy Waters con Rolling Stone e andiamo avanti. E andiamo a parlare sempre della storia del rock che è stata fondamentalmente la cultura nera a dare l'avvio a quella serie di modifiche in campo musicale che generarono appunto il new rock, l'improvvisazione, il tempo aggressivo, la melodia, l'accattivante e il riff strumentale. Verso la fine degli anni 30 iniziò a diffondersi il boogie e fu nel 1939 che per la prima volta si registrò in studio con una chitarra elettrica. Chuck Berry è ritenuto uno dei chitarristi simbolo e uno dei padri fondatori di questo genere. Eccovi una delle sue più celeberrime composizioni. Come ho detto celeberrime? L'ho detto proprio bene. Mi stringo la mano. E proprio questa canzone la troviamo nella cinematografia dal film di Quentin Tarantino micidiale Pulp Fiction. You Never Can Tell, Chuck Berry. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. You Never Can Tell, Charles Edward Anderson Berry, meglio conosciuto come Chuck, nato, sì, ovvio, Berry, nato a St. Louis il 18 ottobre del 1926, è ancora vivente, è un cantante, chitarrista e compositore statunitense. A detta di molti, Chuck Berry è colui che ha inventato il rock, insieme a Bob Diddley. Probabilmente fu lui a inventare la scala pentatonica double stop. Inoltre, le sue canzoni furono le prime ad avere la chitarra come strumento principale. Barry fu anche il primo a inserire nei suoi testi tematiche riguardanti gli adolescenti e la rivolta che stava interessando loro in quegli anni, quando i giovani cominciarono a ribellarsi agli ideali degli adulti, quali la famiglia, il lavoro, le false moralità. Tutto questo trattato da Barry in modo semplice e ironico. Per tantissimi chitarristi, dal pop al metal, è stato una grande fonte di ispirazione. Chuck Berry è stato anche il padre della cosiddetta duck walk, o passo dell'anatra in italiano. La sua caratteristica camminata è eseguita mentre suona la chitarra, è diventata suo tratto caratteristico, la quale viene tuttora adottata anche da Angus Young, chitarrista degli AC/DC. Facciamo ascoltare la sua più famosa canzone, ovvero Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, Chuck Berry. E adesso andiamo avanti, non contest. Con la storia, perché c'è il contest. Io. Ricordiamo le canzoni in concorso, partendo da Luke, prego. Grande. Black Hole Sun, Soundgarden. Io avevo scelto gli Offspring. Con? The Kid Aren't Alright. Io avevo gli Scorpion con Wind of Change. Io ho scelto i grandi Darkness. Con il titolo, quello lì. Quello lì, che non ti ricordi. I believe in a thing called love. No, che significa? Aspetta, io credo in una cosa che si chiama amore. Aspetta, io ho detto. Aspetta, allora. Io ho detto, padre. Chat di vabbè, nostra chat della radio. Della radio. Ok. Cosa ho detto? Ognuno tira di scrive, ognuno manda il messaggio con la propria canzone. Aspetta, nostra chat arriva della radio è beep, beep, beep. Ah, ma sì, no, vabbè, a parte quella. Poi dopo c'è anche qualche l'ultima parte interessante. L'ultima canzone, l'ultima, il Masa manda il messaggio. Ho scritto quella i lì. Darkness, quella più famosa, non mi ricordo. Beh, quella va lì. Bene. Però grande cultura musicale. Perché poi sono tutte belle, quelle sono tutte famose, quelle dei Darkness. Hanno fatto due CD straordinari. Scrive anche qualsiasi cosa e ti dicevo da quella lì. Ma concludiamo il contest con il tecnico Bindi che aveva scelto Foo Fighters, Long Road to Ruin. Bello. E ha vinto. Beh, chiaramente per io per rimanere per rimanere fedeli, proprio fedeli, esatto, bravo. Ai contest fatti finora, chi ha vinto secondo voi? Ho vinto sempre io. Ecco, la 45esima volta. Abbiamo fatto 28 puntate, lui ha vinto 32 contest. Non lo so neanche io come ha fatto. Sceglietele meglio. Vai. Meno buste. Vai, fai partire. Won't you come? E questa era Black Hole Sunday, Soundgarden. Giusto? Te l'ha rubata. Grazie Bindi, ma hai anticipato sul tempo. Ah, scusa. No, perché non mi ricordavo, confusione. Non me lo ricordavo, hai fatto bene a intervenire. Bene, perfetto, sei, Luke. Io detto sei, sei un mito. Ho visto Chris. Sei il sì, numero uno. Con il mio tecnico Masa, con il mio, mio compare. Non c'è nessuno. Bene. Bellissimo che hai da sole. Grazie. Fanno molto robo. Sei quello di X-Men. Sì, infatti, cioè, cioè, evito di toglierlo. No, padre, sei quello di X-Men, quello... Sì. Cosa c'è adesso? Andiamo avanti, prego. Sì. La domanda è: c'erano anche da uomo? Sì. Come ho già detto più o meno la prima puntata. Sì. Bene, e adesso le prova, citazioni. Prova. Un po' di citazioni. Ma... Cosa sono le citazioni? Spiega. Spiega. Andremo a riportare frasi famose di cantanti famosi, di gruppi famosi. Tutto famoso. Tutto famoso. Questa è di Bob Seger. Chi? Basta prendere quei vecchi dischi dallo scaffale. Mi siedo e ascolto me stesso. La musica di oggi non si ha la stessa anima. Mi piace che il vecchio rock and roll di un tempo. Bob Seger. Ce la fai? All time rock and roll. Vai. All time rock and roll, Bob Seger. E adesso andiamo a parlarvi di una citazione del padre del rock and roll italiano, o se vogliamo proprio rimanere in tema valdichiana, del babbo, giusto? Del babbo, il del babbo, babbo del rock, ovvero italiano. Adriano Celentano. E la sua citazione è questa: parlare senza dirsi niente è lento, guardarsi negli occhi è rock. Prison calling Nancy Nine Chusel. Whole red man begin to call the boss dying. Signore e signori, Prison Calling Hansen and Chusel. Che lo sai dire solo te qui? Sì, perché me l'hai chiesto di dirlo e io ho voluto mettere in difficoltà. Non sono in grado. Anche perché se lo dicevamo noi veniva fuori cose un po' storpiate, cose un po'... Quindi Luke, vai, dilla te che... Equivocanti, diciamo. Comunque, proseguiamo con l'ultima citazione. Nonché ultimo brano di oggi. Ma non per importanza però, perché è assolutamente un certo Bruce Springsteen, che fra l'altro farà uscire il suo nuovo singolo la settimana prossima e lo potete già ascoltare in anteprima sulla nostra pagina Facebook, lo abbiamo postato l'altro giorno. Sì. E poi naturalmente ve lo proporremo anche noi più avanti. Comunque adesso una sua citazione seguita dalla sua canzone, diciamo simbolo, Born to Run. Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll. Machines sprung from cages on high. Bruce Springsteen con Born to Run. Piccola impressione personale, ma non vi sembra anche a voi che Bruce Springsteen stia facendo molto più adesso che, diciamo, un pochino anzianotto, no, però un pochino più avanti con l'età? Ha sempre fatto, ha sempre fatto, ha sempre fatto. Magari sei te che lo ascolti ora, ma perché questi, sei ignorante. Tutti questi concerti a giro, con tutti questi concerti, CD nuovi, album a nuovi. A 68 capra. Anni salta come un capretto, via. Come un grillo. Te già ti fa male la schiena. Allora, siamo arrivati alla fine per oggi, sì. Leggermente in anticipo, ma va bene lo stesso. Considerando che tutte le altre volte... Ricordiamo, DJ Patrusi, i nostri appuntamenti classici. I tre appuntamenti, la pagina Facebook All Time Rock and Roll Radio F Vaticana, dove potete trovare sia il podcast di questa puntata, che il nostro carissimo Valerio ci linkerà, ma non solo, anche il contest, cioè le 5 canzoni che noi scegliamo e voi potete votare la vostra preferita e settimana prossima la vincente la metteremo in onda, o in Londra, come ho detto molte volte. In Londra. In Londra. In Londra. Niente, vi dobbiamo ricordare qualche appuntamento? Voi, appuntamenti, Luca? Della radio. Sì, vero. Perché questa sera parte Sugar Night dalle 22 alle 23 con DJ Sandy. E mentre domani, sempre alle 10, ovvero alle 22, parte il programma Piazza Alta. Vero. Quindi ascoltateli, perché sicuramente vi piaceranno. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento, come sempre, a mercoledì prossimo. Ciao! Ciao a tutti!